Anche questa mattina, cari signore e signori, i fuori posto. I fuori posto. Di Umberto Alezio e Filippo Roma. Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. A chi la vuoi dare a bere, Umberto? Io lo so perché hai messo sta canzone, che tu continui a pensare alla tua ex, sempre a lei. Ma perché dici questo? Cioè, mi sbaglio? Cioè, meravigliosa creatura. Sì, vabbè, effettivamente qualcosa mi fa pensare a lei, no. Insomma. Confesso. Hai detto tu ad Andrea di mettere questa canzone perché volevi dedicarla a lei. È stato un caso, è stato il caso. Cioè, sì, insomma. Il caso, chiamiamolo il caso. Chi ci ascolta da casa, credetemi, è stato un caso. Cioè, certo, meravigliosa creatura, siccome lei è una meravigliosa creatura tuttora. Guarda caso. Vabbè, sì, lo confesso. Che ti costa? Fuori amore, va bene? Vabbè, cioè, ma non puoi usare la radio per i tuoi motivi personali, per i tuoi problemi d'amore. Vabbè, non è che... Sì, fuori amore, sì. Voglio fare un uso privato di un mezzo pubblico come quello di Radio 24. Io volevo fare un programma serio dove si parlava di politica, di economia, del sociale. Stiamo a parlare sempre del problema d'amore tuo. La verità che del problema cioè io faccio questo programma, no, per lanciare dei messaggi alla mia ex. Non me ne frega niente dei soldi, del contratto. Cioè, avete capito, signore e signori, sì, Umberto Alezio ha accettato di fare questo programma come strumento subdolo e bieco per recuperare i rapporti con la sua ex. Una cosa patetica. C'è chi si inventa un programma perché vuole i soldi, c'è chi si inventa un programma perché vuole diventare famoso, no? Io mi sono inventato questo programma, i fuori posto, perché voglio riconquistare lei, lo confesso, punto. Vabbè, finalmente l'ha confessato. Hai capito che fatica per riconquistare una donna? Se tu vuoi inventare un programma radiofonico. Hai visto? Tu che ci ascolti, cara donna. Metti quelli una di Radio 24 ci sono cascati, anche tu ci sei cascato. Ci sono cascato anch'io, mi hai proprio preso per il culo. Vai, mi piaceva questo appello che stavi dicendo, tu che c'hai, che stava partendo per lei, no? Sì, perché mi devo togliere sto pensiero. Allora, tu che ci stai ascoltando, vientelo a riprendere, perché per cortesia, io voglio fare un programma serio, voglio fare un programma dove si parla di temi alti, non dei vostri problemi. Per cortesia, Umberto è qui, vientelo a riprendere. Ecco, a proposito di temi alti, io volevo parlare sempre di lei, della mia ex. Ecco. cioè, pensa che sì. Qualche giorno fa mi è venuto il magone, no? Perché che strano. Sì, ma qualche giorno fa, più degli altri giorni. Ah, ecco, un po' di più. Quindi diciamo che non stavo sotto un treno, ma sotto un treno che ci stanno le rotaie. Sì. Sotto le rotaie, sotto terra, capito? Sai perché? Perché? Perché pensavo che mi sarebbe piaciuto, anzi mi piacerebbe tantissimo avere un bambino con lei. Oh, bella questa cosa. Addirittura ti si è anche sviluppato questo senso di paternità? Sì, questo senso di famiglia. Di sì, famiglia. Questa cosa da mulino bianco, da farsi weekend programmati. Posso dirti una cosa? Un pochino tardi. Un pochino tardi, tempo ho 36 anni, mo non no, è un pochino tardi, cioè c'è un'evidenza prima perché ora non ce l'hai più la tua donna. Con chi la fai la famiglia? Vabbè, posso sempre convincere. Ma d'altronde te l'ho detto, no? Lei lo sa, anzi, se ci ascolta, lo sa in questo momento. Cioè, io l'aspetto pure tra 20 anni, pure quando saremo vecchi, capito? Anzi, meglio, sai perché? Perché quando saremo vecchi, cioè, magari poi all'improvviso, perché sono vecchio, mi piglio un colpo, no? E chi mi sarà accanto, no? Tipo te. Te sorreggo, che devo fare? No, basta che scrivi, no? E visse felice e contento, perché lì in quel momento sono felice, perché come ultima cosa ho visto lei. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Eh sì, lei e solo lei. Comunque, ti dicevo, mi è venuto il magone, no, in questi, perché pensavo, no, che mi sarebbe piaciuto, anzi mi piacerebbe avere un figlio con lei, no? E si parla tanto di unioni civili, no? Di coppie miste. Noi invece, no? Qui è fuori posto, no? Sì. Ci piacciono tantissimo i fuori posto, no, ci Filippo? Fanno impazzire fuori posto. Più sei fuori posto e più ci piace. Più siete fuori dal mondo, fuori posto, oppure più cercate il vostro posto ideale, no? E più ci piacete. E più questo è il vostro posto. Tant'è vero, no? Che ho trovato una storia, no? Ah. Non di uno. Già immagino. Non di un fuoriposto. Di due? No, di ben tre fuoriposto. Tre, no? Fuoriposto addirittura. Ci scrive Aldo, sì, no? Sì. E lui convive con un ragazzo gay barra bisessuale, sì, e con anche una ragazza lesbica barra bisessuale. Che casino. E Aldo è anche bisessuale. Comunque non ci ho capito bene. Un casino, no? Comunque sono tre che fanno un po' tutti tutto, no? E tutti e tre dicono: perché si parla dei gay per avere un figlio? Anche noi vorremmo un figlio. E io ho pensato: caspita, qual è il miglior motivo per invitarlo qui ai fuoriposto, no? Benvenuto Aldo. Salve, salve, salve. Allora, Aldo, ammazza che non casino. Non ci ho capito bene, eh. Tanto, mi spieghi com'è, allora, la faccenda? Sì, chiariamo, chiariamo. Dunque, il nostro incontro a tre è partito da un normale, banale gioco erotico e si è trasformato 3 anni fa in relazione amorosa, nel senso che abbiamo condiviso. Tra noi, per esempio, non esiste tradimento perché non c'è noia, c'è un interscambio più o meno continuo, poi ci sono dei periodi in cui due di noi si attraggono di più e l'altro partecipa in maniera diversa, se vogliamo usare questo termine, però tra noi non esiste la noia, almeno fino in questi 3 anni non è esistita, perché c'è un rinnovo di quelle che possono essere le emozioni amorose. Cioè, Aldo, partiamo da te. Tu, sì, qual è la tua condizione, il tuo status? Etero bisex. Tu sei etero, più etero bisex. Che bisex, sì, etero, etero, poi, etero bisex. Il, sì, secondo componente della famiglia è una donna? È una donna, sì, dichiaratissima lesbica fino a qualche anno fa, ora bisex. Ora bisex. Assolutamente bisex. E poi c'è un, sì, terzo elemento? Sì, gay, che però partecipa anche in maniera diversificata. Okay. Il che mi ammazza, che confusione. Continuano a non chiederci un cazzo tutto ciò. No, bisogna precisare delle cose. Dunque, uno, non confondiamo scelta sessuale con natura sessuale. E soprattutto la provvisorietà, che nella sessuologia o nelle relazioni sessuali ha un'importanza fondamentale. Nel senso che non possiamo nell'arco di tutta la nostra esistenza decidere di essere o non essere una determinata inclinazione sessuale, che proprio per essere inclinazione può essere più o meno inclinata. Scusate il gioco di parole. No, intanto è tutto chiarissimo, non ti preoccupare. E soprattutto il legislatore che invade la sfera privata, il che abbiamo degli esempi. Voglio dire, non bisogna tornare tanto indietro negli anni per ricordare l'onorevole Buttiglione, che propose di dare 1.500 euro alle donne che, avendo deciso come problematica di coppia di abortire perché avevano già 7-8 figli, perché non avevano i soldi per mantenere il successivo, decidevano, perché è una legge dello Stato quella sull'aborto, di interrompere la gravidanza. Ebbene, influenzati da un incentivo vergognosissimo dell'onorevole Buttiglione, che fortunatamente si fermò a un disegno di legge, non andò avanti, a una proposta di legge, neanche disegno di legge, loro venivano indotte, per guadagnare 1.500 euro che potevano servire per il loro budget familiare, a non interrompere la gravidanza. Questa è un'invasione meschina e squallida della sfera privata. Vabbè, ma parliamo di voi, torniamo a voi. A parte Buttiglione. Sì, no, io perché arrivo a noi? Molto brevemente, perché la Cirinna. No, ma la Cirinna la conosciamo, parliamo di voi. Noi siamo curiosi. Vogliamo che, per esempio, Aldo, ci fai capire una cosa? Come la giornata, come si svolge la giornata tipo dal punto di vista erotico a casa vostra? Ma non è sempre uguale, perché adesso, per esempio, gli altri due sono fuori insieme e io sono solo a casa, nel senso che si è deciso di fare così per motivi di lavoro, per motivi vari, insomma. Cioè, tu, diciamo, sei l'uomo di casa, poi, la donna di casa. Oggi sì, in questo periodo, almeno per altri 15 giorni sì, poi ad agosto cambierà la musica. No, ma facci capire quando state insieme, no? La sera, che succede? Arriva l'una o torna l'altro? Ma dipende, non c'è una regola, anche se so che è diciamo, intrigante. Investigare in questa maniera, ma con molta lealtà e con molta sincerità vi dico che ci si siede sul divano, si guarda la televisione, ci si tocca, poi chi, a tre sempre, chi vuole, come? A tre sì, in genere sì, guardiamo la televisione insieme, scegliamo il film che piace di più, perché le news sono abbastanza noiose in genere. Oppure se c'è un fatto amoroso, magari ascoltate la radio, i fuori posto, no? Sempre. Come no, certo, cioè, assolutamente, la radio è uno dei... entra in casa, lo sanno tutti che la radio entra in casa come nessun altro mezzo tecnico che riguarda la comunicazione, è principe, non bisogna arrivare alle frasi che Renzo Arbore disse sulla radio per dire che è l'elemento più penetrante. Ecco, tanto rimanere in tema. Tanto per rimanere in argomento. Ma poi come questa serata sul divano davanti alla TV, no? Dove iniziate un po' a toccarvi, come prosegue? Senza voler fare i morbosi, ma giusto per curiosità, insomma. Capita pure che lei si addormenta, però noi accarezzandola e toccandola la rimettiamo in veglia e quindi si comincia. Ammazza, però se si addormenta in mezzo a due non è proprio il massimo. No, può capitare che davanti alla televisione stanca oppure di una giornata. Cioè lei in mezzo a due uomini si addormenta. Capita, è capitato. E sì, voi l'avete detto, oh, te svegli? E l'abbiamo risvegliata come noi sappiamo e si è trovata una situazione. E com'è che sapete voi? Cioè... Quindi le scelte e il menage non hanno limiti per noi. Ma poi per dirti, rimanete tutti e tre insieme oppure vi dividete? È successo l'uno e l'altro, assolutamente. Non c'è una notte che è uguale alle altre, assolutamente. È tutto ma parlare. Intanto dormite tutti e tre nello stesso lettone? Oppure... Sì, assolutamente. Ma dai, tutti e tre. E non è stretto, no? No, assolutamente non è stretto, perché vogliamo stare stretti poi tra le altre cose. Ah, pure, hai capito. Vabbè, ma quando uno poi c'ha sonno... No, cioè, riuscire a dormire bene, nonostante siete tutti attaccati, sì. Sì, è vero, no, assolutamente, questo caso. Poi... se per un motivo qualsiasi uno di noi è successo anche questo, in una passionalità molto intensa di noi tre ritiene di assentarsi per una forma, non di assolutamente, non c'è un limite, un'imposizione, tra una forma di lasciar condividere nella pienezza della vulcanica situazione due di noi tre, si può anche assentare. Ah, ok, quindi non è detto che lo dovete fare. Comunque, praticamente, no, non è una regola. Non fammi una capire, regola, tu sei, come ti definiresti sessualmente? Etero, più etero, però anche bisex. Quindi, perché tu hai dei rapporti anche con lui, no? Del trio, giusto? Sì, ma in tutto questo bisogna anche dividere. Aspetta, fammi capire, poi arrivi a quello che vuoi. Quindi tu... No, non ho rapporti completi con lui, però nell'interazione a tre tu sai che del corpo si usano varie parti. La bocca è una di queste, quindi può essere anche un bacio glielo dai, giusto? Sì. Un bacio. Sì. Invece l'altro elemento del triangolo è un altro uomo, no? Giusto? Sì, certo. Siamo due uomini e una donna. L'altro uomo è com'è? È come gay? È stato gay tutta l'esistenza, però adesso dichiara di avere confusione in merito e riscontra una nuova decisione. Io non sarei meglio. Così. Perché ha rapporti sessuali anche completi. Con chi? Con con la lei. Ecco, la lei e la lei, diciamo che un po' lì un po' là, da quello che si è capito, cioè è lesbica ma anche un per pochino un bisessuale. È stata anche impegnata politicamente come femminista lesbica dichiarata. Ma, senti, oggi, adesso vivendo questa situazione molto serenamente, senza alcun tipo di problema, dichiara di non avere questa questa sicurezza sulla sua inclinazione sessuale o sulla sua scelta che possa essere definitiva per tutta l'esistenza. Ascolta, che vuol dire, Aldo, che è cambiato. Una cosa, Aldo, ma ci sono delle preferenze o delle gelosie poi fra di voi? Ma no, in genere no, assolutamente. Se c'è stato qualche episodio, ma molto tipo? Larvatamente, subito, immediatamente superato. Ma lì, no, ma Aldo è per la cosa liberi tutti, liberi, no? Giusto, tutti, eh? Quindi non... Sì, ma lo siamo tutti e tre, poi c'è questa situazione così bella, per cui il senso del possesso scompare. Sì, certo. Che invece viene solitamente... dichiarato falsamente in quest'Italia bigotta, naturalmente, come uno degli elementi l'Italia bigotta, ma ognuno fa quello che non è che tutti dobbiamo andare con tutti, cioè nel senso che ognuno fa e va con chi gli pare, insomma, mo non è che per forza l'Italia bigotta. Detto ciò, vabbè, tu c'hai scritto, no, hai fuori posto. No, bigotto è il concetto della fedeltà, sì. Attenzione, la fedeltà si sente o si dichiara. Vabbè, detto ciò, Aldo, però mi devi far parlare, perché sennò detto ciò, bigotti o non bigotti, tu c'hai scritto, hai fuori posto, @radio24.it, perché, no, dici, noi siamo un etero quasi, un gay quasi e una lesbica quasi che convivono, no, e sì. Anche noi vogliamo avere un figlio, giusto? Certo. E che sia riconosciuto. Ma sei serio? Sei serio? Ma certamente, che sia riconosciuto. Addirittura? Sia riconosciuto. Ma da tutti e tre? Ma certamente, perché no? Da due padri e una madre. Ma, cioè, riconosciuto, cioè, nel senso che tu, tu dici, correggimi se sbaglio, lui dice, Filippo, io potrei fare il figlio con lei, o l'altro ragazzo potrebbe fare il figlio con lei, però sarebbe sempre il figlio di tu. Tu vuoi un figlio riconosciuto a tre? Certamente. Ah, hai capito? Mi sembra un genitori e anche una tutela nella sua esistenza del bambino o della bambina più duraturo. Diciamo che non si è mai sentito che un essere umano ha tre genitori. Magari due genitori. Un anno fa non si era mai sentito che Elton John potesse avere un figlio, insomma. Ah, tu dici, non c'è il limite. Ma scusa, ma non è meglio che risolviamo prima per bene sta cosa e poi andiamo magari al testo? Oppure, no, cioè, nel senso, dico io, no? La vedo duretta, anche perché con quale coraggio uno va dal Papa Francesco e dice: caro Papa Francesco, io vorrei essere, avere un bambino e siamo in tre, no? Tre, cioè, secondo poi, me così vabbè che Papa Francesco, Filippo, no, è un papa aperto, sì, è uno che ha detto chi sono io per giudicare un gay, no, fino a un certo punto, però mi sa, cioè Goaldo, no, allora vi dico subito che nel 77% delle situazioni di separazione tra etero o tra coppie instaurate secondo le ultime leggi, le ultime tendenze, praticamente dopo un anno e mezzo la coppia scoppia. Questo lo sapete anche voi statisticamente, mi pare che in una trasmissione qualche mese fa ne avete parlato. E vabbè. Per cui da questo punto di vista vi immaginate che condizione esistenziale e affettiva può vivere il bambino o la bambina se si ritrova con il fidanzato nuovo della madre o l'amante nuova del padre, con identificazioni confuse. Nel caso nostro, dici, gli diamo la confusione già dall'inizio, di giusto? Di si trova altri due genitori, quindi voglio dire, c'è una riserva più corposa. Se se ne va uno, rimangono in due, insomma. Vabbè, allora se vale sto principio, allora facciamo le famiglie a 10 persone, sì, perché così, a scalare, cioè, c'è sempre qualcuno, insomma. Sì. Ma che c'è, bambino? Ma che c'è? Già ce l'avete un bambino? Già avete adottato un bambino? Pronto? No, ho sentito una bambina, un bambino. No. Non c'entra niente, non è vostra figlia. No, assolutamente no. Vabbè. Ma ascoltando, ma in una sola parola, la vostra famiglia è un po' bizzarra, come si potrebbe definire? Ma un'unione civile con questa rete, cioè voglio dire l'articolo 2 della legge Cirinnà, ma non voglio dire cose ormai scontate. No, ma una cosa senza invocare le leggi, cioè dal punto di vista emozionale, che famiglia è? Chi siete voi? Una famiglia. Tu quanti anni hai? 60. E gli altri due? 35 e 55. 35 e lei? Cioè, tu comunque sei serio? Cioè, veramente stai dicendo che c'è una relazione con altri due? Dico di più, noi abbiamo, per condurre questa che la consideriamo adesso una battaglia sociale a questo punto, sì, abbiamo arricchito, anche se con la dovuta, se vogliamo, visto che dal punto di vista della comunicazione, delle radio e televisione c'è bisogno anche di una certa elasticità e non essere fermi. Più modo elastici di noi, fuori posto. Stiamo dando voce. Appunto. Abbiamo con l'aiuto di un proprietario di una sala di registrazione inciso una canzone che si chiama Sesso Confuso, che io vi posso spedire quando voi vorrete. Siamo curiosi, certo. Sesso Confuso, cioè io impazzisco all'idea di ascoltare Sesso Confuso. Ma potremmo già ascoltarla adesso oppure no? Anche se accendo il computer ve la diffondo, non so come viene. Ma non potresti accendarcela tu con la tua voce? Sì, sì. Come fa Sesso Confuso? Io non vai. So più chi sono, che sesso che avrò. È un po' una martellante elencazione di quelle che sono le stranezze della società d'oggi, che noi la nostra mira qual è? Paradossalmente vogliamo far capire come in una condizione di sesso confuso in questa società poi vengono penalizzati invece quelli che linearmente e con estrema lealtà, come noi, vogliono proporre una situazione che, sebbene è diversa dalla tradizione, però è pur sempre viva di sentimento. Sento che intanto Sesso Confuso potrebbe essere un testo del nostro caro. Infatti mi ricordava qualcuno. Mi ricordava Ciruzzo, però insomma. Ascolta, ma era carino l'inizio, farne un altro po'. Ve la mando. Ma infatti, prendiamoci pochi secondi, stai zitto. Volete, intanto lo sto accendendo il computer. No, aspetta. Qualcosa si sente, ve la faccio sentire. Aspetta, è davvero molto simpatico. Aspetta, pigliamoci qualche secondo per ascoltarla. Sì. Fa schifo. Ha Aldo, Aldo, ce la mandi dopo la canzone, ce la mandi dopo, perché se no. Comunque, Aldo! Fermate, Aldo, Aldo, fermate, basta, stoppa, stoppa! Aldo, ti prego! Ferma, oddio! Ferma! Aldo, niente, è morto, Aldo! Non ci sente! Stop, Aldo! Perché lui ha il telefono vicino alla cassa e non ci sente. Sente. Quindi bisogna sentire tutta la canzone. Secondo me sì, siamo obbligati. Ci anche tocca. Voi a Radio 24 siete obbligati a sentire tutta la canzone. Sì. Però Aldo! Niente. Aldo! Bisogna rassegnarsi, Umberto, bisogna aspettare la fine della canzone. Allora, che ti aspetti da uno che vive con una... Cioè, è un casino. Vabbè, a questo punto ascoltiamo in religioso silenzio la canzone. Guarda, io gli attaccherei il telefono, guarda. Io mi sto emozionando. Anche perché Aldo! Penso sesso confuso e ho davanti te, Max... Non solo. Andrea e Luigi. Luigi il più carino di tutti. Siamo già in cinque, pensa... Sarebbe un sesso confusissimo, pensa. Nel frattempo, Beto, ti faccio notare che passano i minuti e Aldo non ci sente, la canzone va avanti. Aldo non ci sente, è pronto? Tutto è Aldo! Niente. Allora, e la canzone dura 8 ore sì, e mezza. Tra poco quindi dobbiamo andare anche in pubblicità, dire peraltro. Che tutti, pronto? Dobbiamo sfumarlo, perché ci aspetta la pubblicità e non possiamo permetterci di non mandarla. Quindi... Però sesso confuso a me piaceva questa cosa di sesso confuso. Guarda, se uno è fra mezz'ora, se rialziamo su c'è ancora la canzone che va avanti. Pronto? Oh, Aldo. Finalmente. Ah, finalmente. No, Aldo. Questa è una provocazione, non è che siamo noi. Ma quanto dura sta canzone? Mezz'ora? Sì, sì. 2 minuti e 32. Ah, pensavo 2 ore e mezza. Senti, Aldo, scusa, i vostri genitori sanno di questo simpatico progetto che avete? Sì, quelli vivi sì. Ah, quelli, beh, quelli morti sarebbe insomma, lasciamo. Un po' complicato. Quindi, e che sono d'accordo, sì, hanno detto sì, non c'è problema, sì, potete avere un bambino in tre, cioè, nel senso... Tu non pensi che da parte vostra possa essere comunque, adesso scherzi a parte... Non pensi che possa essere un atto di profondo egoismo qualora decidessi di fare una cosa così, insomma? Ma già la decisione della procreazione, noi facciamo nascere chi forse non vuole stare su questo pianeta. Ah, quindi pensa, vabbè, questa è una cosa filosofica. Vabbè, comunque, Aldo, noi ti ringraziamo, non sappiamo se... È una storia nata di fantasia oppure è vero? Però insomma, noi che siamo fuori posto ci incuriosiva, no? Ci piace così. Aldo, salutaci i tuoi amici, i tuoi compagni. I tuoi compagni, ecco, partner. Salutaci i tuoi partner. Non va bene. Grazie. Ciao Aldo. Ciao. Ammazzo, beh, questa l'hai scovata bella, eh? Eh sì, hai visto? Cioè, com'erano, già mi sono perso. C'è uno che è bisessuale. Uno bisessuale. C'è una. Una che è ex lesbica, però insomma. Non disdegna non gli uomini. Poi c'è una specie di omosessuale pentito. Uno che per tutta la vita è stato omosessuale. Vabbè, uno un po' di qua. Vabbè, diciamo che sono tre che si vogliono bene e che vorrebbero avere un figlio. È quello che conta. Che si vogliono bene. No, dai. Il triangolo no. Cioè, alla fine hai visto altro che triangolo. Qui è un pentagono. Un cioè, pentagono, una mille roba. Vertici. Ville cose che poi si abbassano. Insomma, secondo. Vabbè, comunque, diteci cosa ne pensate di Aldo e dei suoi partner. Noi ci ritroviamo sempre qui, tra poco ai Fuori Posto, no Filippo? Sì, se tanto volete scriverci, i Fuori Posto, @radio24.it, oppure in segreteria lasciateci un messaggio allo 0246524182 o un sms o whatsapp al 349-2386-666. E anche voi, se siete in 3, in 4, in 5, volete fare una famiglia, come dire, allargata, no, allargatissima, noi vi aspettiamo qui perché siete i Fuori Posto ideali. A tra poco! 4 magliette, 2 camicie, 1 vestito, 3 paia di scarpe e i libri! Cosa metto in valigia? Sono Alessandra Tedesco, la vostra cacciatrice di libri. In estate gli appuntamenti con i consigli di lettura si moltiplicano. Dal lunedì al venerdì alle 23.45, il sabato e la domenica alle 10 del mattino e la tradizionale puntata del sabato alle 6.30 e in replica alle 22. Vabbè, non ci avete capito niente, non avete preso appunti? Niente paura, trovate tutto su radio24.it. Fuori Posto. I Fuori Posto, Radio 24, Umberto Alezio, che bello averlo qui accanto a me. Hai visto, sei felice? Eh? Anche per me, Filippo Roma, è un bel vedere, ve lo posso assicurare, insomma. Diciamolo, questo ricciolo, diciamolo, un po' attempato. Che attempato? Una volta che è ripartito bene. Un po' attempato, con problemi ai denti e anche vascolari, no? A tutte le donne, insomma, se sognate questa figura, insomma, scriveteci sulla nostra pagina Facebook ufficiale e proponetevi a Filippo Roma. Certo, dopo questa bella pubblicità che mi hai fatto, mi sa che mi scrive nessuna qua. Ma che ti frega, tanto tu sei sposato, in crisi. Giusto, giusto. Per, in crisi. Ricordiamo che Filippo Roma, con una testimonianza che potete trovare sulla nostra pagina ufficiale o sui podcast di Radio 24, abbiamo la testimonianza della moglie di Filippo Roma che dice che è in forte crisi il loro rapporto perché Filippo ha un'ansia sessuale. Che io smentisco, che io smentisco. Comunque, Umberto, qui bisogna tornare agli argomenti seri. Ci scrive un ascoltatore ai fuoriposto @radio24.it che si chiama Luca ed è di Genova e ci dice: perché state sempre qui a parlare di cazzate? Volete parlare di argomenti seri, come ad esempio quello dell'evasione fiscale? Ah, l'evasione fiscale è un argomento molto trattato al Sole 24 Ore e a Radio 24, anzi viene trattato in maniera approfonditissima. Noi dei fuori posto, no, possiamo trattarlo a nostro modo. Ora, non mi sembra il caso per stavolta di interpellare il nostro esperto di economia. Ciruzzo Tozzi, no. No, no, no, no, no, no, il nostro esperto di economia magari, però... Possiamo vedere il punto di vista di un politico. Quindi vuoi far partire Fuori Politica? Eh già. Eccoci qua, e quando parte Fuori Politica noi siamo costretti a collegarci con la politica, no, del web, la politica che è nata dal popolo, no, ma che è sbarcata, no, nelle case di tutti gli italiani, no? Martina Dell'Ombra, ci sei? Ciao, ciao a tutti, ciao Umberto, ciao Filippo. Ciao Martina. Ecco qui. Buongiorno. La politica nata dal popolo, nata dal basso, giusto? Nata dal basso, tua sorella. A ridaglia, odia mia sorella questa, cioè, ma no, che ti ha fatto mia sorella? No, è che lei rappresenta il popolo venuto dal basso, le contadine, ma eccetera. Guarda, io so per certo che la sorella Umberto non fa la contadina comunque. Vabbè, fa la commessa, sì. Ma no, non fa manco la commessa, ma che te frega? Poi farà, cioè, quello che vuole lei, insomma. Io non capisco perché quando parliamo con Martina dobbiamo divagare, dovevamo parlare di tasse, no? Pagare le tasse. È una cosa bellissima, lo diceva Padoa Schioppa, giusto? Sì. Dillo pure tu, pagare le tasse è una cosa bellissima. Beh, sì, pagare le tasse è una cosa super bella. Oh. Brava, brava, oh, brava. Oh. È importante da dire perché comunque le tasse poi vanno a fungere, no? Certo, vanno come ammortizzatore sociale, sì, no? Servono a finanziare i servizi pubblici per le persone meno abbienti, sì, gli ospedali, sì, sì. La scuola, no? In realtà, secondo me, per un sistema che funzioni al meglio bisognerebbe fare delle fortissime riforme in modo tale che le persone... Ottimo, per il welfare, no, dici? Di pagare le tasse, cioè queste tasse potrebbero andare, okay, poi per dire ad aiutare quelli che devono mettere il carburante agli yacht. Ma come? Ma che dici? Ma che dici? Anzi, tutto il contrario. Tutto il contrario, dovrebbero andare ad aiutare, no, il cosiddetto... La chirurgia estetica, capito, che dovrebbe essere comunque... Ma che sei, ma è matta? Ma stai scherzando, queste sono operazioni voluttuarie. Ma ti sei drogata? No, cioè penso... Ah, sei normale, così... Fondamentale. Per alcuni dirigenti le macchine di lusso, capito, cioè dovrebbero comunque essere sovvenzionate dallo Stato. Ma come, quelle già ce l'hanno in abbondanza, le macchine di lusso, proprio perché sono dirigenti. Sempre di più le tasse andranno ad aiutare l'accrescimento della ricchezza del paese, che significa andare a servire servizi, a fare servizi per le persone più abbienti, che poi sono anche quelle che pagano più tasse, quindi è giusto che siano aiutate di più. Scusa, ma le persone più bisognose come le aiutiamo? Le persone bisognose pagano poco, quindi se paghi poco che vuoi? Ma sei seria o stai scherzando? No, sono seria, ma scusa, ma uno che guadagna 1.000 euro al mese, quanto potrà pagare di tasse? Appunto, proprio perché guadagna poco e versa poco, dobbiamo aiutarlo. Ottieni poco. No, al contrario, dovrebbe ottenere di più. Quel detto, guadagno, spendo, pretendo. Ma scusa, ma questo detto è un po' un detto... sciocco, no? Superficiale. È un detto fatto per prendere in giro le persone, cioè quelle ricche, no? Della Oh, ma questa ce l'ha con mia... Ma che ti ha fatto? Ti ha fregato il fidanzato, mia sorella? Ma figurati se tua sorella riesce a prendere il mio fidanzato, ma va. Ma guarda che mia sorella comunque è una bella... Capisco che abbia quella furbizia delle ragazze povere, però... Le ragazze povere hanno una furbizia. Comunque, pagare le tasse è una cosa bellissima, perché deve aiutare le classi più difficili. Non è, certo. Non è che possiamo aiutare, che ne so, l'Apo Elkan, no? Non possiamo aiutare, che ne so, Flavio Briatore. Dobbiamo aiutare quello che lavora, che ne so, in una fabbrica, in una catena di montaggio e fa fatica ad arrivare alla cosiddetta quarta settimana, no? No, perché le persone che devono essere aiutate sono le più meritevoli, quindi Flavio Briatore è più meritevole di un operaio che non fa niente. Ma che stai dicendo? Ma l'operaio, sì, anzi, l'operaio è più meritevole perché ha uno stipendio più basso, si sacrifica per sé e per la famiglia. Poi, altra cosa. Se si sacrificasse veramente guadagnerebbe di più, dai. Ma poveraccio, ma lui vorrebbe guadagnare di più, ma ha dei limiti ma non e non ci riesce. Ma non è capace e quindi merita di più Flavio Briatore. Guarda, questa c'è è una... Non c'è speranza. Allora mo facciamo, che ne so, pagate le tasse perché vi danno lo sconto al billionaire sulle magnum di champagne. Che possiamo fare, un appello così? Dai, mi no, sembra... vabbè, lo sconto sembra una casa da poveri. No, perché per offrire gratuitamente le magnum. Ma questa è matta. Ma poi sì, così magari facciamo la guerra dei tavoli che ci spruzziamo lo champagne addosso, dai. Mi che bello! Sì. Questo è scema. È una cosa bruttissima. Ma è una cosa cioè è brutto sprecare il cibo e lo champagne, no? No, vabbè, ma lo champagne si utilizza anche per alcuni trattamenti per lusso per il corpo. Ma che scusa, sfumatore. Non mi dire, guarda, non mi cadere su questa cosa, non mi dire che hai fatto la guerra dello champagne e che ti hanno spruzzato lo champagne addosso. Ah beh sì, certo. Sullo yacht lo facciamo. Come lo facciamo sullo yacht? Ma tu pensa ai bambini poveri che... Tu pensa con una bottiglia di champagne? Sì, quanti bambini... praticamente riusciresti a mantenere la famiglia di un operaio con il costo di una bottiglia di champagne. Ma praticamente i bambini poveri, sì, no, in effetti una bottiglia di champagne non riescono a finirsela. Servirebbero almeno 2-3 bambini. Sì. Ma mica lo bevono. No. E il concetto è andasso. Ma sì. No, è il valore della bottiglia che allora servirebbe. I bambini, i figli dei miei amici, tipo lo mettono nello spruzzino, sai, al mare e se lo lanciano addosso. Nella pistola d'acqua ci mettono lo champagne e se lo lanciano addosso. Pensa, ho letto su un sito di informazione locale che c'è anche questa pratica, no? In Costa Smeralda, a Porto Cervo, che alcuni... Sì. In alcuni locali, per ostentare la loro ricchezza, incendiano delle banconote. Beh, sì, vabbè, questo si fa dagli anni 70, eh. Ma non andrebbe, condannata, sta tutta... È una cosa vintage. Di? È una cosa vintage. Vintage. Vintage. Ragazzi, dovete studiarlo però all'inglese. Cioè, guarda, questa cosa è una cosa da condannare perché quei soldi potrebbero andare in beneficenza, no? Non dirmi che l'hai fatto pure tu. Scusami, sono di loro. È pure illegale, pensa. Mi dice Andrea che è pure illegale bruciare i soldi. No, non è assolutamente illegale. Ma tu l'hai mai fatto o hai amici che lo fanno? Ma no, cioè avevo degli amici russi che lo facevano ogni tanto, però tu dicevi fermi, no? Li condannavi? No, dici, no, io dicevo, che bello! Ma come che bello, su, ma come che bello! Che ma bello, sembravano tipo le fiaccole giapponesi, quelle che tiri in aria. Umberto, sono disgustato. Guarda, Martina, sta cosa, prima lo champagne, la guerra d'età, buttarsi lo champagne addosso. Poi incendiare... Vabbè, ma loro li bruciavano perché... Ma piuttosto che dargli allo Stato li brucio. Scusa Marti, io se ho 10 euro in tasca e non mi capita spesso, mi vado a mangiare una bella pizza e magari vado anche in quei ristoranti, no, dove posso mangiare quanto voglio, all you can eat. Ma allora non bruciavano 10 euro. Bruciavano una banconota da 500. Ma da 500? Questa è matta. Io se avessi 500 euro che mi avanzano, li darei in beneficenza. Io voglio approfondire questo argomento. Senti, Marti, stasera c'è un ristorante all you can eat. Ti va di andarci insieme? Magari possiamo mangiare a sbafo? Mangiare che? Al all you can eat, che possiamo praticamente paghiamo e possiamo mangiare quanto vogliamo. Oh, che schifo, tipo come i bambini africani. Ma che dici? È un ristorante, è una all you can eat, è una formula. Che cosa terrorizzante. Sì, per quelli che non mangiano tanti giorni. Guarda, ti passo a prendere verso le 8. Tu No, ti prego, no. Come te prego? Facciamo così, Marti, guarda. Piuttosto di regalare 500 euro ti vai a fare un giro. Proprio come i poveracci, cioè proprio vabbè. Ti considera un pezzente. Guarda, lasciamo stare. Comunque, guarda Marti, magari approfittiamo sui ristoranti all you can eat, ci ritorniamo in una delle prossime puntate. Però, va insomma, bene, io ti invito... Proprio... magari riesco a convincerti a scegliere uno stile di vita più dignitoso. No, io ti invito a fare una riflessione, no, sui ristoranti all you can eat, che ci dirai in una delle prossime puntate. Però, va bene. Però mi raccomando, non banalizzare, perché l'all you can eat può essere comunque una forma per le famiglie, no? Cioè, no, io non banizzo niente. Non banizzo niente. Non banalizzare. Banalizzare, non banizzo. Banizzo niente. Su banizzo, chiudetemi il collegamento con Martina Dell'Ombra, perché è pietosa questa cosa. Allora, niente, c'è sempre st'idea di far venire allora, Martina Dell'Ombra. Allora, cioè, Umberto, qui con Ciruzzo Tozzi e Martina Dell'Ombra, sai che fine facciamo? Mi sa di sì, mi sa di sì. È molto vicina allora, questa fine. Io ti dico, dobbiamo cercare degli opinionisti seri, economisti seri e politici seri, se no qui il programma chiude. Voi che ci ascoltate da sotto l'ombrellone, dall'ufficio, dalla montagna, dalla macchina, se volete intervenire al nostro programma, i fuoriposto, @radio24.it, o volete proporvi, perché no, come opinionisti, lasciateci un messaggio alla nostra segreteria telefonica, che è 0246524182, oppure Filippo? Oppure via SMS al 349-2386-666. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo puntuali qui tra qualche minuto su Radio 24. A tra poco con i fuori posto. I fuori posto. Oddio, cioè, ho paura perché questa voce non mi è nuova, no? Non mi è nuova, ma il motivo sì, però. Sto tremando anch'io, Umberto. Ma non sto è che tremando anch'io. L'ultima fatica discografica di un grandissimo artista? Ma non esagerare, perché quello poi, la cosa brutta, no? È che ci crede e si monta la testa. Sì, ma quando sento questa voce, Umberto, sai cosa significa per me? Per me paura, cioè. Paura e soprattutto economia. Oddio, cioè, no, dobbiamo rifar partire la rubrica fuori economia? Sì, purtroppo un bene, non ci abbiamo nessun altro per ora, quindi dobbiamo accontentarci di lui. Ma non avevamo detto che dovevamo fare i casting, le non cose? Non ce l'ho fatta, quindi per oggi dobbiamo ancora tenerci lui se vogliamo parlare di economia, non so che dirti. Vabbè, questo è fuori economia, hai fuori posto. E ahimè, purtroppo, no? Sì, sottolineiamolo. Purtroppo lui è Ciruzzo Tozzi. Sì, grazie, ma mettetevi d'accordo, non mi insistete che volete lì e poi dopo non mi volete, poi mi volete, poi non mi volete, insomma. Cioè, ma che sei permaloso stamattina, Ciruzzo? Cioè, non lo so, io sono venuto qui proprio gentilmente per ringraziarvi, perché devo dire grazie a voi. È successo grazie a noi? Eh sì, grazie a questa radio meravigliosa, che devo dire vi porto nel cuore, che io poi vi sento da una vita, vi seguo da una vita, perché sono sempre legato a voi da sempre. Grazie a questa radio meravigliosa, che lo voglio anche dire così. Bravo, poi, ricordiamolo. Radio? Scusa, come cavolo mi chiamate? Non mi ricordo. Ma come che... Radio Rai, vabbè. Ma che Radio Rai? È Radio 24, ma... i fuori posto. Sì, ma mi ricordo. Sì. Ok. Grazie a Radio 24, io sto avendo molto successo, la gente mi chiama. Ottimo. Che ti dicono quando ti insultano? Mi chiamano? Tutti insulti? Io dico, senti, ma volete un mio concerto, il mio spettacolo? Sì, no, che ne facciamo? Io una tua, mi dicono che vuoi una mia consulenza. Da economista non si aspettano le consulenze da parte tua. Cioè, invece di avere, che ne so, un super ragioniere, un super fiscalista, no? E, cioè, sì. Chiamano Ciruzzo Tozzi, non è credibile sta cosa, per evadere. Guarda, la nostra figlia vuole una consulenza, la faccio io la consulenza. Guarda, io già so dove andare a parare. Si è vagamente intuito. No, anche parare, che sto buffone. Buffone sì, Ciruzzo. Un grande buffone. Ecco, cioè. Vabbè, faccio finta che non sento niente per affetto. Allora, quindi io ci vengo, sono a vostra disposizione, la gente viene e poi mentre faccio la consulenza canto pure. E questa è la bellezza del mio melodico consulente. E che c'è tra che canti? La consulenza dà qualche consiglio un po' come fare, come muoversi. Ciruzzo, meno male, bravo. Campo. E a proposito e di... Canta. Guarda, a proposito di consulenza, ecco, no? C'è qualcuno che ci scrive, sì, giusto? Sì. Al nostro numero WhatsApp, che è il 349-2386-666... Ci scrive Michela, no? Ah, Michela. Sì, ti prego. Michela era ascoltatrice serissima. Facciamo battute o allusioni. No, che battute. Allora, Michela ci scrive. Ma seria. Super seria. Michela è una nostra. Oltre a Michela non ce n'è nessun altro. Già in quanto ascoltatrice di Radio 24, la persona, ti assicuro, allora, serissima. Fai una cosa. Facciamo questa cosa. Scusa, ragazzi, ma è serissima? Serissima. Allora, facciamo questa cosa. Non c'è un'altra. Io adesso ho. Non ce n'è un'altra. Io ho tra sul nostro numero WhatsApp. Ci sono le domande di Paolo, Roberto, sì. Antonio e Michela. Chi scegli tra i quattro? Ma Michela è serissima proprio? Beh, Michela è una brava ragazza, sì, seria. Bella, una bella ragazza. Beh, allora fa lo stesso, ragazzi. Ah, vabbè, quindi vuoi parlare con Paolo? Chiamiamo Paolo. Tanto è serissima Michela, quindi che cosa... Che devi farci con Michela, scusa, No, vabbè, ma non... Vabbè, dai. Vabbè, no, Michela ci chiede... Vuole parlare del problema delle consulenze, no? Se una persona, un professionista, lavora nel pubblico, può fare anche delle consulenze nel privato? È etico? Sì. Ah, risposta secca, cioè così, subito. La domanda subito, la rispondo subito. Cerchiamo di circostanziare. Certo, allora, benissimo. Allora, se uno nel, fa questa, diciamo che per quanto mi riguarda, io personalmente sono dal privato passo al pubblico e dal pubblico passo al privato, che un po' senso? Faccio faccio un po' di saltelli senza alcun problema. C'è, cioè, tu fai consulenze private? Sì, faccio anche consulenze private. Io faccio lo spettacolo in pubblico e poi la ragazza me la chiamo. Ma che dici? Ma che dici? Adesso no, la consulenza economico-finanziaria, che hai capito? Benissimo. Allora faccio prima parlo a tutti quanti. Sì, ma... ragazzi, secondo me dovete spendere i soldi qui a questo supermercato perché è più economico. Ah, cioè fai le macchette, fai gli sponsor. Questa macelleria si spende di meno, quest'altro è un amico, quest'altro mi dà la cosa grande. Cioè, è una macelleria, tu puoi fare pubblicità a una macelleria, questo che ti deve dare in cambio il macellaio? No, vabbè, fa una cosa a piacere, no? Adesso non facciamo che si accontenta, però vedi, si accontenta. Una cosa a piacere, lui, quello che vuole lui, che l'altro giorno ho dato 2 chili di salsicce. Altra volta un po' di hamburger, come cavolo, coscettine di pollo. No, però se volevo dire, questo è il mio amico Raffaele, il macellaio. Raffaele, le coscette non erano granché, l'ultima volta, lo voglio dire. Ma approfitti della radio, ma non puoi chiamare, scusa. Vabbè, è capitato, ma non è che voglio faccio sempre. Gli unici di persona. Ciruzzo, Radio 24. Sempre, questa era proprio una schifezza, Raffaele, questa era proprio una porcheria. La prossima volta dico di andare dall'altro macellaio, quindi fammi sto piacere, le coscette. Sì, magari vogliamo dare pure la ricetta per le coscette di pollo. Vogliamo dare una ricetta al volo a volo? Sì, a chi? Ai nostri ascoltatori, già che c'è stato. Che faccio cuoco io, che do la ricetta. Ah, bravo, vabbè, perché fai l'economista. Tu sei un cantante neomelodico, non di successo, cioè diciamolo. Non di successo, ma che stai scherzando? Ah, dimmi, cioè, tipo il massimo del pubblico che hai fatto, pagante, quanto è stato? Pagante, ma io non li voglio i soldi. Non faccio spettacolo. Che signore, Ciruzzo, mamma mia. Addirittura, cioè tu pratichi spettacoli. Io faccio spettacoli per beneficenza. Che cuore d'oro. Per beneficenza. Una famiglia napoletana è bisognosa, che è la mia famiglia. Gira che ti rigira. Sempre da te arrivano i soldi, mannaggia. Cioè, gira che ti rigira e vanno a te, alla tua famiglia. Sì, ma è beneficenza, non è che è una cosa, capito? Ho capito. Ma non è beneficenza, allora diventa un compenso, perché tu canti e poi raccogli i soldi. Ma ragazzi, dobbiamo parlare di economia, dobbiamo parlare di... Bravo, a proposito di economia, ci scrive Franco da Modena, ci scrive vorrei un consiglio su come scaricare le spese per il 7,40. Guarda, questa è una cosa da cui non posso entrarci, ti dico la verità, perché è un fatto suo personale. Lui dove abita? A Modena sta. A Modena. Noi, per esempio, io per esempio le spese per il 140, che è un altro pullman che passa qui, non le scarico, per qualche volta ci vado e dentro fra noi il biglietto non lo pago. No, ma guarda, è scandalosa sta cosa, ma non possiamo dire queste cose. Come il biglietto va pagato. Va bene, allora che vuole? Se lo paga il 7,40, e dove lo porta su 7,40 lui? Ma il 7,40 è il modulo per pagare le tasse, l'IRPEF. Ah, scusate ragazzi, ho fatto un po' di confusione. Tu paghi le tasse? No, perché c'era un pullman che passava a Modena, no, 700. Ma rispondi alla domanda di Umberto, paghi o no le tasse, Ciruzzo? Le tasse? Le tasse, sai cosa sono le tasse, sì. Ah certo. Cioè, hai mai pagato le tasse tu? Certo, la luce, il gas. Le utenze, quelle sono le utenze. Quelle le devi pagare per forza, perché se non le paghi ti tagliano, cioè quindi vabbè. Se sei al buio. Voglio vedere, vabbè, lascia perdere. io mi attacco con la luce all'altro nel palazzo, voglio vedere come va. Addirittura c'è, cioè, il massimo della illegalità, non, cioè, paga e si attacca il contatore a un altro. No, io pago se la cosa è giusta, se cominciano a aumentare aumentando questi latri, che sono dei ladri. Loro sono ladri. Magari un populista sta diventando. Un mondo di ladri, come dice la canzone di Antonello Venditti. Quello sì che è un gran cantante. Quello sì che è un gran cantante. E quella sì che è una sua canzone, no? Un mondo di ladri. Scritta da lui. Sì, anche se l'ha copiata da un napoletano che si chiama Ugo Venditti, che di qua. Ma non è ma io non ho mai sentito Ugo Venditti. Mai sentito. Dai, cioè. E chi sarebbe? Ma chi ha mai sentito? Chi sarebbe sto Ugo Venditti? È uno che cantava le canzoni così. Questo mondo è pieno, Mario. Venditti l'ha tradotta in romano. Ma può essere mai che tu accusi di plagio, e ormai è conclamata questa cosa, accusi di plagio Ciruzzo Tozzi e mo Ugo Venditti, no, accusa di plagio Antonello Venditti? Vi posso fare una domanda? Sinceramente, però mi dovete rispondere col cuore e col batticuore. Vabbè, vai ti rispondiamo col batticuore, vai. Allora, nel mondo, no? In tutto il mondo, non soltanto nel mondo nostro, diciamo, dell'Italia, nel mondo, tutto il mondo del mondo, cioè tutto, capito? Anche altri paesi, anche la Svizzera. Vabbè, insomma, tutta la terra, dai. Tutta la terra, sì. Che cosa è conosciuta? La canzone italiana di Roma, c'è il Venditti, o la canzone napoletana? Diciamo la canzone napoletana, dai. Hai ragione. E quindi dovevo arrivare. E quindi, con tutto il rispetto, voi sapete fare altre cose. Per esempio, sapete fare la polenta, sapete fare il risotto alla milanese. Ma la canzone napoletana la sappiamo fare noi. Qua nascono i grandi cantanti che poi vanno nel ma mondo. Ma noi? Mo ti vuoi paragonare a Murolo? Ma che c'entra? Quelli sono cantanti una volta, non ci sono più. Poi non c'è più neanche Murolo. Oggi i grandi cantanti non ci sono Carosone? Più. Carosone? Ti vuoi paragonare a Carosone? Ragazzi, oggi i grandi cantanti non ci sono più. Chi c'è rimasto? Chi c'è rimasto? Murolo è morto. Pino Daniele è morto. Renato Carosone è morto, io non mi sento tanto bene potrebbe essere un modo per liberarci di Ciruzzo, Umberto. Quindi ci stai dando una notizia, potrebbe essere uno dei tuoi ultimi interventi da vivo, finalmente. Voglio parlare di economia, dobbiamo andare a dormire tutti quanti, la gente vuole sentire economia. Bravo. Allora Ciruzzo, cosa fare per abbassare la pressione fiscale? Ho capito, innanzitutto la buona alimentazione, perché la pressione è una cosa, cioè in estate la pressione è un pericolo della vita, eh? Attenzione, ci sta chi ha la pressione alta, chi ha la pressione bassa. Ma quella è la pressione cardiaca, la pressione fiscale. Mi piace il mio ultimo pezzo che ho fatto 3 mesi. Ma stava parlando di pressione fiscale. No, perché lui, questo furbacchione, vuole parlare di ste cose, così poi si fa le seratine di certo, piazza. Grazie a noi poi si fa le seratine. E tu che ci dai in cambio? Volgarità. Voi vi procurate qualche serata lì, dalle parti vostre, non so, Monza, Varese. Noi siamo a Milano, siamo a Milano. Vabbè, Milano. Il cuore dell'economia italiana, siamo nel centro del mondo italiano, di tutto. Lo so, vabbè, adesso non la menate, me la cantate, non è una cosa che c'è. A me va bene pure che non è proprio Milano, cioè, se vi date qualche serata per le parti, io vi do una bella, ma vi dico bella, una bella percentuale a voi. Ci sta proponendo un affare a noi, Ciruzzo. Voi proponete un neo melodico. Guardate, io sono l'unico neo melodico al mondo che c'è proprio il neo in faccia. Il neo melodico. Guarda, questa cosa mi fa schifo. È proprio meraviglio di te, Filippo. Mi attaccate, Ciruzzo, per favore. Basta così. Tu e questa malsana idea di ospitare sto matto, guarda, cioè. Io, Umberto, sto cercando in tutti i modi disperatamente di trovare un economista serio. Anzi, faccio un appello: economisti, professori in economia, fiscalisti, dateci un segno che noi vi vogliamo. Dobbiamo sostituire Ciruzzo, abbiamo bisogno di persone serie. Cioè, io mi aspettavo più un. Adesso non dico Padoan, no? Ma comunque, senza esagerare, ma comunque un profilo. Monti, per esempio, no? Monti, visto che adesso. Ascolta, signor Monti, potrebbe venire al posto di Ciruzzo a farci la consulente qui a Radio 24? Comunque, per oggi chiudiamo, no? Chiudiamo in che senso? La trasmissione o proprio chiudiamo il programma? La trasmissione penso che sia imminente, insomma, proprio l'arresto. L'arresto. Io, tu, Ciruzzo, Martina, insomma tutto il cast. Grazie a questi cast, belli ospiti che abbiamo. Anche per oggi è finita. Noi ci vediamo però sempre qui, su Radio 24 e Fuori Posto, la prossima settimana. Vi aspettiamo lunedì mattina alle 10 con i Fuori Posto. Ciao!